Buongiorno ai radioascoltatori e benvenuti a Done Grenzen. Questa settimana voglio riportare le esperienze di due ragazzi, Fabio ed Alessandro, che hanno scelto di lasciare l'Italia e lavorare come medici in Germania. In un periodo storico in cui, come riportato dal Journal of Health Monitoring 2018 del Robert Koch Institute di Berlino, persone appartenenti ad uno stato socio-economico inferiore risultano particolarmente a rischio di salute, complicazioni e morte in età più giovane. Questa non è certo una novità ed accade in Germania e in tutta Europa. In tale contesto mi sembra interessante ascoltare le osservazioni di chi ha l'opportunità di valutare due sistemi sanitari strutturalmente diversi, come il sistema pubblico italiano e quello semiprivato tedesco. Come mai ha deciso di venire in Germania? Non c'è una risposta unica, è stato sicuramente una serie di motivazioni che si sono messe insieme. Devo dire il motivo principale è stata una scelta, non una scelta di vita, ma una scelta personale per provarmi a fare un'esperienza all'estero. Avevo voglia di andare un po' via dall'Italia, stare in una città che mi piacesse. Avevo dei legami personali con Berlino, una città che conoscevo già abbastanza bene, mi sono sempre divertito qui. Ovviamente informandomi sulle possibilità di poter fare fare una specialistica in Germania, mi sono reso conto che è un sistema abbastanza aperto, ci sono tante opportunità di lavoro, non è che sia più facile rispetto all'Italia, ma si può bypassare un po' la storia del test nazionale, si entra per colloquio diretto, e quindi sapevo che avrei potuto fare un'esperienza lavorativa in un paese ovviamente dove la qualità delle strutture, la qualità dell'insegnamento è buona, c'è un buon livello, coniugandolo al fatto di voler vivere un po' fuori dalla mia città, dal mio ambiente, in una città che obiettivamente è divertente. E hai avuto un'esperienza lavorativa o comunque anche attraverso l'università in Italia? E in Italia io ho studiato, ho fatto solo vari tirocini fino all'esame di Stato, non ho mai lavorato. Anche adesso mi trovo ogni tanto nella situazione di dover pensare, fare un bilancio, fare un paragone con l'Italia, e non sono in grado di farlo. Posso solo rifarmi alle esperienze dei miei ex compagni di università. So più o meno come funziona in Italia perché da studente ho visto i reparti degli ospedali universitari, che sono gli ospedali in cui si fa la specialistica, ma non ci sono mai stato dentro, ecco. Le tue prime impressioni entrando nel sistema sanitario tedesco? Ma le mie prime impressioni ovviamente sono state nel senso, arrivi qui, metti piede in Germania, cominci ad avere i primi contatti con gli uffici, con le varie Frau e Herr, signore e signori che sono responsabili del tuo percorso burocratico in primis, e rimani un po' scioccato. Rimani scioccato perché non capisci, perché ci sono le parole difficili, perché non sai che cosa devi davvero fare per poter essere un membro del sistema, no? E quindi accederci. Si impara piano piano, ovviamente bisogna imparare a comunicare il prima possibile per poter riuscire a capire ciò che ti viene richiesto e ciò che devi fare per cominciare a lavorare. Una volta passato lo scoglio burocratico, insomma, ci si trova bene perché le condizioni di lavoro sono abbastanza vantaggiose, si parla ovviamente dal punto di vista remunerativo, ecco, gli stipendi sono meglio di quello che si può avere nella mia stessa situazione di specializzando in Italia. Bisogna lavorare tanto perché c'è anche qui, come credo in tutto il mondo, una mancanza cronica di personale medico, infermieristico e tutto ciò che ci sta intorno, quindi qua come in Italia, ecco, bisogna essere disposti a lavorare tanto, i turni soprattutto nei primi anni sono duri. Detto questo, io mi trovo molto bene. Cosa pensi sia particolarmente buono all'interno del sistema tedesco e cosa una mancanza? Allora, secondo me è positivo il fatto che ci si possa costruire il proprio percorso di formazione, appunto puoi decidere tu dove fare richiesta di colloquio, quindi puoi contattare tu l'ospedale, hai un contatto subito diretto e personale con il capo, con il primario ovviamente, e a volte anche con tutto il reparto, perché mi è capitato di fare un colloquio davanti a tutto il reparto perché volevano scegliere insieme l'eventuale nuovo collega, e questo ti fa sentire appunto di poterti presentare dal punto di vista personale, non solo per un fatto di curriculum, o per il mio curriculum voglio dire era nullo, era una laurea senza nessun tipo di valore aggiunto. Si può decidere di smettere di lavorare in un ambiente, fare altre esperienze parallele, di cambiare città, di cambiare ospedale, di cambiare anche campo. Ed è una cosa che a livello di formazione può funzionare, ecco. Cosa non mi piace, devo dire, questo l'ho rivisto in vari campi in Germania, è tutto molto elitario, quindi all'interno di un sistema sanitario, di una clinica, anche qui c'è da parlare, forse da spiegare un po' il sistema semi-privato assicurativo che esiste in Germania. Però c'è una grande differenza tra il corpo dei medici e tutte le altre figure professionali che stanno in ospedale. Quindi i medici praticamente prendono tutte le decisioni da soli e c'è una grande differenza sia di formazione che di compenso economico rispetto alle altre persone. In questo ci sono delle discrepanze all'interno del team di lavoro. Non so, mi sembra una cosa negativa. morgens bin ich so solide, doch am Abend werd ich schwach. Wenn der Wecker morgens rasselt und der Tag nimmt seinen Lauf, ist die Stimmung mir vermasselt, denn ich steh so ungern auf. Doch wenn tausend Lichter glühen, bin ich jede Macht ganz groß. Und wenn dann noch Musik erklingt, dann geht es los. Ich bin morgens immer müde, una differenza di preparazione tra te e i tuoi colleghi di lavoro con una formazione medica tedesca? Ho notato una differenza all'inizio perché secondo me gli studenti o gli ex studenti, i neomedici in Germania arrivano da questa esperienza dell'anno pratico, il PJ, il Praktisches Jahr, che è un anno di formazione pratica di tirocinio, l'ultimo anno di università, e ti prepara già alle capacità pratiche di tutti i giorni, lavorative. Un ragazzo italiano invece non è abituato, perché il tirocinio in Italia è molto meno professionalizzante, ti prepara meno alle mansioni e ai compiti che devi svolgere poi da specializzando. Vivendo una situazione di pronto soccorso al tuo ospedale, vedi anche delle peculiarità? Il pronto soccorso è divertente, perché è divertente. Il problema c'è un abuso, questo capita credo ovunque, però appunto in Italia forse per i casi meno gravi, non so, codificati con blu, bianco, insomma casi non particolarmente acuti e gravi, bisogna pagare, c'è la cosiddetta il ticket appunto la collaborazione tra cittadino e sistema sanitario, quindi forse si tende ad andare con meno facilità al pronto soccorso. Qui arrivano a qualsiasi ora del giorno e della notte, magari con l'ambulanza, pazienti che non hanno bisogno, insomma, di una cura ospedaliera, e questo porta ad un sovraffollamento, al fatto che è più lento, che bisogna lavorare molto di più e, come dicevo prima, non c'è abbastanza gente per rispondere in modo adeguato all'affluenza dei pazienti. Di organizzazione territoriale è diffusa e il problema è che appunto c'è un sistema assicurativo e quindi per accedere a questo tipo di cura è necessario al 100% avere l'assicurazione sanitaria. Ci sono tante persone qui a Berlino, si vede, sia stranieri che sono venuti qui a vivere e a lavorare, sia tedeschi stessi che non hanno la possibilità di avere questa minima copertura sanitaria, e quindi se hanno bisogno di un problema si va nel pronto soccorso dove non si può, e questo ovviamente è una cosa fondamentale, una grande differenza col sistema privatizzato puro. La cura non viene rifiutata assolutamente a nessuno e non bisogna avere la possibilità economica di curarsi, però questo succede solo nel pronto soccorso. Forse questa semi-privatizzazione, questo sistema assicurativo ti permette di avere un po' più di facilità rispetto in Italia, dove si sa, è noto, nonostante sia un sistema organizzato come dovrebbe essere, welfariano, pubblico, gratis, c'è il problema delle liste d'attesa che sono infinite. È risaputo, ci sono dei problemi enormi, problemi di turnover, problemi di appunto nuove assunzioni che adesso si stanno accumulando e a breve esploderanno. Verrà meno l'assistenza sanitaria per tantissimi cittadini sul territorio, perché non sono stati assunti nuovi medici di base, non sono stati assunti nuove figure professionali che debbano occuparsi di questo tipo di medicina. Altro da aggiungere rispetto a quello che hai detto in generale? Posso fare solo un commento sulla mia esperienza, è un'esperienza positiva dal punto di vista personale, egoistico, egocentrico, ecco. Mi sto divertendo, mi sono dovuto confrontare con una lingua difficile, con la necessità di integrarsi e di riuscire a stare bene anche in un posto dove non avrei mai pensato di capitare. of pollution, and that's one thing I don't agree. Can't you see it's just a batch of flies, Billy Rand philosophy. Little children taking pills, or smoke a joint or two. This world become a mess, 'cause Mr. Pool is doing it too. Queste le parole di Fabio, che come abbiamo ascoltato si sta specializzando presso l'ospedale Weissensee di Berlino. E adesso Alessandro dallo Charité. Nel sistema sanitario italiano tu paghi le tasse e nelle tasse è previsto anche il trattamento sanitario. Qual è il problema però? Sono le liste d'attesa, le code, la prestazione che viene erogata è sempre buona perché la preparazione medica è ottima, e c'è voglia di fare ovunque. La realtà è che c'è poco personale, quasi in tutto il mondo in realtà, e soprattutto c'è un over prescrizione in Italia. C'è molta medicina. Ovviamente se si tratta di salvarti la vita, siamo imbattibili, su quella non ci piove. È semplicemente un modo diverso di affrontare il problema. Però appunto anche questa cosa del cancro in casse non è all'americana. A parte che di solito c'è il cancro in casse se è pagato dal datore di lavoro. La metà dal datore di lavoro e metà dal lavoratore stesso. Però penso sia anche a seconda del contatto che hai. Al contrario, cosa pensi che si sarebbe da migliorare? Sai, purtroppo la mia è anche un'esperienza limitata perché io lavoro quasi zero sul territorio e io lavoro in un ospedale, anche non in un ospedale, lavoro allo Charité, quindi ho una visione limitata e posso fare confronti solo con il San Raffaele, che non è uno specchio affidabile della sanità italiana perché è un centro di eccellenza ed è un centro privato convenzionato, quindi ha anche accesso a risorse differenti, quindi non posso fare poi un discorso generale. Diciamo che vantaggio della sanità tedesca per me medico, che devo fare esperienza per diventare uno specialista, ma vieni lanciato molto di più in prima linea. Io dal punto di vista medico ho fatto cose che in Italia magari non avrei mai fatto neanche dopo 5 anni. Vantaggio è apprendi molto di più, molto più rapidamente. Svantaggio ovviamente succedono più errori. L'altra faccia della medaglia però è che se in Italia sei un chirurgo, prima di 4-5 anni di specialità non chiudi la pelle, fai i punti di sutura della pelle e basta. E questo ovviamente è frustrante, oppure fai la burocrazia. Poi appunto i ritmi sono, questo è un altro problema però, i ritmi sono insostenibili in Italia. Si lavora troppo e male perché non ci sono le risorse umane e infrastrutturali. Però quello che ne paga sempre alla fine è il paziente. Però una cosa positiva sul sistema sanitario italiano? Una sicuramente positiva sul sistema italiano, lo posso dire, non ho mai conosciuto medici che io non abbia stimato. Tutti i medici con cui ho avuto a che fare sono tutti stati splendidi professionisti, che non hanno mai avuto problemi a fare straordinari, anzi era la normalità, che danno tutto per il paziente. Che è il motivo per cui, nonostante non ci siano i soldi, il sistema non è ancora collassato. Il problema è che quanto puoi buttare sulle spalle dell'essere umano così problemi qua? A una certa fine non potrai più tirare la corda, si spezzerà e purtroppo ho paura di quel momento quando capiterà. Per ora ci andiamo ancora. Poi in Italia ci sono delle grandissime eccellenze. Tieni conto, l'ospedale dove ero io sono stati i primi a fare terapia genica, cioè a correggere difetti genetici nei migliori di pazienti, cioè quindi roba proprio dall'avanguardia, nonostante poi siamo uno stato relativamente piccolo e che investe pochissimo in ricerca. Questo sempre a sottolineare l'ottimo livello di preparazione dei medici italiani. Poi ovviamente ci siamo anche l'Italia che ha prodotto Simoncini, quello che dice che il tumore si cura col bicarbonato, siamo quello che hanno prodotto la Mereu, siamo quelli che hanno prodotto Stamina. Al tempo stesso in Germania c'è la nuova medicina germanica di Amer, che è anche un'altra pseudomedicina, quindi quello c'è ovunque nel mondo, così come in America anche c'è la Miracle Solution, gente che prende la candeggina perché pensa che cura tutto. Thank you. ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Na fein. Herein, willkommen im Fall. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute. Treffen fette Bräute und alter nette Leute. Warum dauernd trauern? Wow, schau dir diese Frau an. Schande, dazu bist du imstande. Komm, ist deine Herz allerliebste aus dem Lande. Und du hängst, denkst an eine andere. Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben my first love. Ich dachte nur im Schlaf, doch auf sie war ich schon immer scharf. Den Blick an, sieht sie mir eben durchs Zimmer warf. Oh mein Gott, was hat der Trottel sort? What a pretty woman. Das Glück ist pretty dumm, wenn ich die stummen Blicke schicke. Sie wie rum in Ecke kicke, meint ihr, checkt sie das? Du bist durchschaubar wie Plexiglas. Sie kommt auf dich zu. Na Kleiner, hast du Bock auf Schweine? Ja klar, nein, ich mein, ja, ja. Soll ich's wirklich machen, oder lass es lieber sein? Jein, jein. Soll ich's wirklich machen, oder lass es lieber sein? Ich habe einen Freund, ein guter, sozusagen mein Bester. Und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin, nicht auf seine Schwester. Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben. Wenn er es mir und ich und sehen kommt, sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, dann schwindel ich. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Und somit sitzt sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefliegt fühle. Warum hat er die schönste Frau zu Frau? Mit dem schönsten Körperbau. Und ist sie schlau? Genau. Steigen an die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts. Lecht, nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu mein gute Freunde brauchst? Halt, der will dich links, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Doch wenn sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein, jein. Soll ich's wirklich machen, oder lass ich's lieber sein? Nein, nein, nein. Soll ich's wirklich machen, oder lass ich's lieber sein? Mich schätzt, jetzt bin ich der Solist in unserem Knabenchor. Hey Schiff, was hast du heute Abend vor? Ich mach hier nur noch meine Strophe fertig. Pack meine sieben Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben. Denn wenn man ehrlich besteht, sind solche Menschen gut. Haben wir eher fertig gesehen. Aber, weil bist du eingebaut. Auf das Beste, das Feste, auf der Gäste. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du echt was verpasst. Und wen wundert, das wird fast die Party des Jahrhunderts. Lust hätte ich eigentlich schon. Oh, es klingelt just das Telefon. Und sie sagt, es wäre schön, wenn du bei mir bleibst heute Nacht. Ich dachte, es wäre abgemacht. Wisst ihr, ich liebe diese Frau. Und deswegen komm ich von der Traufe in den Regen. Na, was ist nun, Schiffmeister, kommst du mit, du Kollegenschwein? Ja, nein, ich mein, jein. Soll ich's wirklich machen, oder lass ich's lieber sein? Jein. Soll ich's wirklich machen, oder lass ich's lieber sein? Soll ich's wirklich machen, oder lass ich's lieber sein? Tedesco è molto gerarchico, non sorprende, conoscendo i tedeschi, quanto questo poi infici sull'efficacia o sulla correttezza del trattamento che poi il paziente riceve, non so dirtelo. Posso immaginare che però in un sistema così gerarchico, appunto, uno sia più attento a quelle cose che dice, che fa o a quanto si espone, Però questo c'è anche in Italia in realtà, perché magari in Italia è meno gerarchico ufficialmente, ma ufficiosamente c'è è l'inferno. Dal punto di vista della formazione ti posso dire un po' di più, forse, visto che io sono emigrato qua per formarmi, per diventare specialista. Il sistema tedesco lo ritengo più meritocratico, perché quello della specializzazione è un mercato del lavoro aperto, quindi se ci sono dei posti tu ti puoi proporre e puoi essere selezionato secondo vari criteri, tra cui anche una raccomandazione, che però è trasparente, non è la raccomandazione italiana sotto certo. banco, ma è una cosa normale, che è sacrosanta tra l'altro, cioè se un bravo medico dice questo qua è bravo, prendilo, perché non deve ascoltarlo, no? Solo che poi non hai un numero fisso di anni da fare per poi diventare specialista, o meglio ce l'hai, ma in quel numero fisso di anni devi fare un determinato numero di determinate procedure, e se tu non le fai non diventi specialista. In Italia era, almeno finché c'ero io in Italia, al contrario, entrare era difficilissimo perché i posti sono sempre troppo pochi e ci sarebbe una lunghissima parentesi da fare sulla programmazione, che in Italia è ovviamente totalmente assente, visto che ci sono tipo, ora i numeri non ce li ho più precisi, però erano tipo 3.000 nuovi posti di specialità ogni anno per 10.000 nuovi neolaureati. Quindi significa tu hai 7.000 medici ogni anno che devono aspettare l'anno dopo, più quelli nuovi dell'anno dopo, capisci? Ora hanno cambiato un pochettino mettendo le graduatorie nazionali, però il problema è che ora c'è la mobilità. E soprattutto una volta che però tu sei entrato nel sistema di specializzazione, teoricamente devi solo fare degli esami e poi sei specialista. Non devi certificare di aver imparato delle cose, devi solo fare un esame ogni anno, però pezzo formalità o almeno... quanto ho avuto io il modo di vedere in maniera indiretta, avendo fatto io la specialità qua. Ma Feierabend è una parola tedesca che in Italia non c'è. È la mia parola tedesca preferita, che prevede il fatto che dopo il lavoro sia diritto di ogni essere umano avere un tempo per se stessi. Direi che una situazione così limite come quella della sanità, in cui gli straordinari si fanno a prescindere, capisci? Cioè c'è in gioco la vita delle persone, quindi uno si fa 10 miliardi di pensieri prima di fare di non fare degli straordinari. Certo. E non conosco un medico che non abbia fatto degli straordinari, però proprio dal punto di vista culturale secondo me è un cambiamento. Si cerca di trasformare il sistema di formazione italiano in un sistema che simula quello americano, secondo me è un grosso problema. Il neomedico tedesco ti sa fare magari un paio di cose pratiche in più, perché magari avranno fatto più reparto, però si cerca di dare una manualità già da prima, in questo magari l'italiano è carente. Però quando si tratta di manualità è una cosa che tu devi solo provarla un paio di volte e poi l'hai appresa. Invece una preparazione organica, sistematica, di come funzionano delle cose, di come funziona il corpo umano, di com'è la medicina, è una cosa che richiede studio, che richiede riflessione, che richiede tornare sui temi più volte, ed è come è impostato il sistema di formazione italiano in genere. Sai, a volte ci viene rimproverato, è troppo nozionistico, ma è giusto che sia così, perché tu poi con le nozioni puoi elaborare, sviluppare le tue capacità e poi anche puoi fare anche le cose manuali e impararle. Però le nozioni non le puoi improvvisare, non le puoi imparare in 2 mesi. Credo che la preparazione italiana sia apprezzata perché teoricamente ti prepara molto bene a livello nozionistico, in modo integrato, sai le cose e quindi poi le sai usare. Se tu invece impari solo learning by doing, fai un tipo di preparazione diversa, meno flessibile, meno intelligente. In Italia ho avuto modo di assistere solo a uno sciopero dei medici, che tra l'altro è stato anche un semi sciopero. Invece appena arrivato qua in Germania ho già assistito a 2 o 3 grossi scioperi con grandissima partecipazione, soprattutto degli infermieri. Per diritti però in realtà sacrosanti, cioè è giusto che ci siano più infermieri, perché non puoi fare un reparto che di notte c'è solo un'infermiera per 10 pazienti. Questo devo dire, lo apprezzo. Diciamo che come sensazione generale mi sembra che il sistema sanitario sia un lavoro come un altro, però è una cosa buona in realtà. Le interviste proposte hanno sottolineato alcuni punti di forza e debolezza dei 2 diversi sistemi. Una cosa è certa: avere un sistema sanitario accessibile a tutti è un diritto conquistato dopo secoli di lotte e rivendicazioni. Poter essere curati non è una cosa scontata. Buona giornata e arrivederci alla prossima puntata.